Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ben approdate cari ascoltatrici e cari ascoltatori, qui a Effetto Notte. Anche questa sera si ricomincia la settimana insieme, finisce la giornata, quindi è il momento di sentirci per riepilogare tutti i fatti principali di oggi e anche per chiacchierare con diversi ospiti. Vedremo un po' quali sono i movimenti all'interno della Lega, per esempio, che si avvicina al congresso, all'elezione del proprio nuovo segretario, e ci sarà un leader di livello nazionale tra poco. Parleremo anche di altri argomenti, naturalmente anche del devastante tifone nelle Filippine. Sapete che c'è preoccupazione anche per gli italiani, poi anche del meteo, delle condizioni meteorologiche che riguardano l'Italia, che per fortuna non sono di quel tipo, però oggi sono delle perturbazioni abbastanza pesanti anche da noi. Poi tanti altri temi, ma intanto iniziamo dai titoli principali. Dalla legge di stabilità, da domani inizia l'esame dei 3.000 emendamenti, anche la Confcommercio chiede delle modifiche. Intanto parrebbe che ci sia un accordo tra PDL e PD sull'IRPEF, niente IRPEF sotto i 12.000 euro. Il tifone che ha devastato le Filippine, la comunità internazionale organizza i soccorsi nel paese, c'è preoccupazione per alcuni italiani che mancano all'appello. Il maltempo in Italia, le condizioni meteo stanno creando problemi in alcune zone della penisola, in particolare Toscana, Umbria, Marche e Campania, i disagi sono maggiori, il maltempo colpirà fino a mercoledì il centro-sud e le regioni adriatiche. Spazio, avrete sentito che l'astronauta italiano Luca Parmitano è tornato sulla Terra dopo 6 mesi in orbita e per fortuna, per quanto riguarda invece il satellite Goce, si è disintegrato nell'atmosfera, quindi nessun danno per quanto riguarda la Terra e l'Italia. E poi il calcio, il giudice sportivo chiude per 2 turni le curve della Juventus dopo i cori antinapoletani. Cominciamo allora ad approfondire queste notizie partendo dalla legge di stabilità. Il ministro dell'economia Saccomanni ribadisce che nel 2014 l'economia italiana avrà un segno positivo. Dopo una grave crisi, grave e prolungata, gli ultimi dati congiunturali segnalano che l'attività economica si sta stabilizzando e che il Paese si sta avviando verso una graduale ripresa. Nel 2014 la dinamica del prodotto è stimata pari all'1,1% e a partire dal 2015 la crescita del PIL si porterebbe su livelli vicini al 2%. Previsioni e ottimismo che non sono però queste condivise dal presidente di Concommercio, Carlo Sangalli, che ricorda come le imprese del commercio siano stremate. Il prossimo anno non ci sarà, secondo Sangalli, alcuna ripresa. Concommercio punta il dito anche sulla contraffazione. La Confcommercio lancia l'allarme: l'acquisto illegale può diventare la normalità. Ha aumentato in Italia il volume del giro d'affari dei prodotti contraffatti, sebbene i consumatori siano coscienti del rischio. Lo ha dichiarato Carlo Sangalli durante la giornata di mobilitazione nazionale per la legalità organizzata da Confcommercio. La contraffazione e l'abusivismo ogni anno sottraggono più di 17 miliardi di euro, e questo vuol dire mettere a rischio esistenza 70.000 imprese e 185.000 posti di lavoro. Si tratta di un danno enorme per le imprese in termini di mancate vendite, riduzione del fatturato, perdita di immagine e di credibilità. Sono i prodotti di pelletteria, gli alimentari, l'elettronica ai primi posti nella graduatoria degli acquisti preferiti. Il 50% dei consumatori dice di comprare illegalmente per motivi economici. Sul fronte delle aziende, 4 imprese su 5 si ritengono danneggiate dai meccanismi commerciali fuori delle regole, fenomeni che risultano più accentuati nel centro e sud Italia. Per fronteggiare questa deriva, il ministro degli interni Angelino Alfano ha voluto ribadire l'importanza di un intervento congiunto con l'Unione Europea per la tutela del Made in Italy. Leonardo Rossi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E un'altra richiesta che arriva da Concommercio si allinea a molte altre richieste fatte dalle varie parti sociali, cioè modificare, insomma, in sostanza la legge di stabilità. Ci sono 3.000 emendamenti e per ora si fa anche un po' a gara, diciamolo, tra chi la spara più grossa. Dalle pensioni al cuneo fiscale alla nuova imposizione sugli immobili, tanti ancora i nodi da sciogliere e le correzioni che si vogliono apportare alla legge di stabilità. Gli emendamenti presentati sono oltre 3.000. Su uno di questi convergono PD e PDL, cioè sull'ipotesi di alzare la soglia di esenzione dall'IRPEF ai redditi inferiori a 12.000 euro dagli attuali 8.000. Entrambi infatti hanno presentato un emendamento su questo punto, ma la proposta è bocciata dal viceministro all'economia Fassina, secondo il quale è presto per parlare di intesa PD-PDL sull'ampliamento della no tax area, anche perché l'operazione è molto costosa. Fassina che si scaglia anche contro la proposta del PDL di vendere le concessioni balneari. Non è nell'interesse del paese, dice, né in linea con il programma del governo. Di certo sulla legge di stabilità restano tutte le divisioni sul fronte casa. Mentre si discute ancora su come trovare le coperture per l'abolizione della seconda rata IMU, il PDL propone per la tassazione immobiliare futura il tributo unico comunale in sostituzione dell'IMU e della TRISE, un'imposta la cui componente rifiuti dovrebbe essere calcolata in base all'effettiva produzione e non ai metri quadri. Insomma, dopo la TASI, la TARI e la TRISE arriverebbe il TUC. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Parleremo anche di questo famoso TUC e ne ho parlato anche, se volete, su Twitter, @Roby_Giordano. E poi vedo un'agenzia di poco fa che riguarda il PDL, un'altra proposta che fa rottamare le cartelle di Equitalia per avere subito 800 milioni da destinare al cuneo fiscale alle pensioni. Lo prevede un emendamento alla legge di stabilità firmato da Antonio D'Alì e Andrea Mandelli. Dovrebbe essere, insomma, una specie di sanatoria fiscale questa. Ma adesso parliamo dell'enorme catastrofe che c'è stata nelle Filippine. Non si era mai visto un tifone così potente come Ayan, né quello che ha lasciato il suo passaggio, i disastri, una devastazione per cui ora il mondo intero si mobilita, a cominciare dall'Italia che manderà aiuti per 1,5 milioni, una devastazione che è ancora nei suoi contorni, nei suoi infiniti danni da definire. Quelle che invece sono già chiare sono le cifre delle vittime, si parla di più di 10.000 morti, moltissimi bambini colpiti, più di 4 milioni stima l'UNICEF, 4 milioni di bimbi che hanno bisogno di tutto in un paese dove è stato dichiarato lo stato di calamità dal presidente Aquino. Nel frattempo i sopravvissuti si contendono il cibo in attesa che il resto del mondo porti degli aiuti. Il Vaticano ha già stanziato 150.000 dollari, l'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile a cui tutti i vari stati membri dovranno fare riferimento, ma dai vari paesi c'è anche la corsa a cercare di contattare i propri connazionali. Vi dicevo che c'è preoccupazione per alcuni italiani perché per il momento non si riesce a contattarli. La ministra degli esteri Emma Bonino conferma che si stanno cercando questi italiani segnalati dalle famiglie. Ne parleremo più tardi con una delle principali ONG che si sono mobilitate da subito. E occupiamoci anche del maltempo in Italia. Le condizioni meteo stanno creando problemi anche in alcune zone della penisola. In Toscana, Umbria, Marche, Campania ci sono i disagi maggiori. Il maltempo colpirà fino a mercoledì il centro-sud, però poi sentiremo il colonnello Mario Giuliacci, ci dirà un po' quali sono le previsioni. La politica adesso con la Lega. Matteo Salvini ha presentato oggi la sua candidatura alla segreteria federale del Carroccio. Salvini correrà con lo storico leader Umberto Bossi, poi con Giacomo Stucchi, che è presidente del Copasir, Manes Bernardini, ex candidato sindaco a Bologna, e Roberto Stefanazzi. Non c'è invece Flavio Tosi, che ci sarà invece più tardi qui a Effetto Notte. Non mi candido, ha spiegato il sindaco di Verona, per favorire una nomina unitaria. Ora i precandidati dovranno raccogliere almeno 1.000 firme entro il 30 novembre per concorrere all'elezione diretta del segretario, che è prevista per il 7 dicembre. Salvini è dato per favorito per la conquista di Via Bellerio grazie anche all'appoggio molto forte di Roberto Maroni, segretario federale uscente. Questa ipotesi viene confermata da Roberto Biorcio, docente di sociologia dei fenomeni politici all'Università Bicocca di Milano. E allora sentiamolo al microfono di Paolo Panceri. Probabilmente va in direzione Maroni, Salvini e forse Tosi, nel senso che quelli che sono poi militanti iscritti tendenzialmente, cioè sono prevalentemente, credo, legati a Maroni, o sono stati, beh, si è visto anche nell'ultimo congresso, e Bossi certamente ha perso, ovviamente per le vicende note, non molto dell'appeal che aveva un tempo. Uno potrebbe però vederla anche quasi come una divisione del lavoro, ecco, anche se poi genererà tensioni e conflitti, cioè che Bossi tenderà a rappresentare la Lega storica, la Lega a cui appunto molti interventi in Radio Padania o molti della base guardano con favore. Ecco, diciamo, Maroni e poi con lui Salvini e forse Tosi ancora di più cercheranno invece di una Lega tra virgolette normalizzata come partito regionalista che stabilmente insediato nel centrodestra, che peraltro poi come lei saprà il centrodestra è tuttora in forza forte subbuglio, insomma, quindi non è neanche ben chiaro, diciamo, quale assetto avrà. In ogni caso questo sarà un po' il gioco. Certo, poi credo che resterà comunque, anche se sconfitto Bossi, presente, e comunque questa parte di difendere la vecchia Lega, o comunque un certo tipo di Lega di lotta, cercherà di gestirla. E sentiamo invece qual è la situazione nel PDL. Sono queste le ore dei contatti e delle conte per cercare di capire il peso reale degli schieramenti in campo. Il Consiglio nazionale di sabato, che sancirà ufficialmente il ritorno a Forza Italia, si avvicina e ad oggi sembra inevitabile la spaccatura tra Berlusconi ed Alfano. A scatenare l'ultimo braccio di ferro tra Falchi e Colombe, le parole ieri di Angelino Alfano. Il ragionamento del vice premier è stato il seguente: Berlusconi decadrà da senatore o per un voto dell'aula di Palazzo Madama o per via giudiziaria. Ecco perché, secondo Alfano, Berlusconi dovrebbe comunque sostenere il governo Letta. Non bisogna seguire gli estremisti, aggiunge Cicchitto. I toni che vengono usati sono tali da creare le condizioni per impedire un dibattito politico normale e sereno. Meglio estremisti che attaccati al potere, replica la Presti Giacomo. I fedelissimi del Cavaliere intanto rimandano le parole di ieri di Berlusconi e i senatori indecisi ricordano: siate leali o farete la fine di Gianfranco Fini. Sulle divisioni del PDL dice la sua anche il Presidente del Consiglio. Continua a non vedere quali alternative serie per il Paese ci siano intorno al cupio di Solvi, dice Letta. Non serve a nessuno e non cambia niente, neanche al PDL. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Occupiamoci ora di Alitalia. Ci sarebbe un piano da 250 milioni di risparmi all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione della compagnia, in programma per mercoledì. Nel piano ci sarebbero circa 200 tagli di personale. Spostiamoci all'estero. Il presidente francese François Hollande è stato contestato durante una cerimonia all'Arco di Trionfo a Parigi. Alcuni manifestanti hanno occupato il centro della strada. La polizia ha arrestato 70 persone, tra loro simpatizzanti di estrema destra e dei berretti rossi, un movimento che in Bretagna contesta alcune scelte del governo. E poi la vicenda dei Marò. Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, parla di uno sviluppo significativo dall'interrogatorio che c'è stato oggi, che le autorità indiane all'ambasciata indiana di Roma hanno fatto in videoconferenza ai Marò detenuti in India. Per chiudere lo sport, il calcio. È arrivata oggi la decisione del giudice sportivo dopo Juventus-Napoli di ieri sera. Sentiamo Dario Ricci. Sì, costano cari alla Juventus i cori discriminatori nei confronti dei tifosi napoletani. Ieri sera, durante il big match dello Juventus Stadium a Torino, curve chiuse per la gara con l'Udinese del prossimo 1° dicembre e 50.000 euro di multa. E provvedimento esteso anche alla curva sud per un ulteriore turno, anche il 14 dicembre contro il Sassuolo. Queste le decisioni del giudice sportivo, che ha multato sempre di 50.000 euro anche il Napoli per il lancio di oggetti e petardi da parte dei suoi ultra. Per quanto riguarda invece il giorno dopo, Salernitana-Nocerina di Lega Pro, il questore di Salerno Antonio De Jesu ha escluso per il momento che dietro ai responsabili di quanto accaduto allo stadio Arechi ci sia la criminalità organizzata. Individuati 30 ultra della Nocerina, emessi 20 provvedimenti di DASPO. Per il momento è tutto. E per chiudere, la Formula 1. È stato ufficializzato il passaggio di Felipe Massa alla guida della Williams dopo 8 stagioni in Ferrari. Massa prende il posto del venezuelano Maldonado. Allora, ci fermiamo per aggiornare chi sta viaggiando, però vi ricordo che c'è, per le vostre opinioni, potete per esempio esprimervi questa sera su Umberto Bossi, che si ricandida per la segreteria della Lega. Che ne pensate? Flavio Tosi, che invece fa un passo indietro. C'è la pagina Facebook, effetto notte trattino Roberta Giordano, oppure il numero per i messaggi, per gli sms, 349-238-6666. A dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E quindi riprendiamo con le notizie, poi ci saranno i vari ospiti. Vi ricordo quelle principali. Legge di stabilità, da domani inizia l'esame dei 3.000 emendamenti, anche la Confcommercio chiede delle modifiche. E poi il tifone che ha devastato le Filippine, ora ne parleremo. La comunità internazionale organizza i soccorsi nel paese e c'è preoccupazione per alcuni italiani che mancano all'appello. Maltempo in Italia, le condizioni meteo stanno creando problemi in alcune zone della penisola, in Toscana, in Umbria, Marche e Campania ci sono i disagi maggiori. Poi il maltempo colpirà fino a mercoledì il centro-sud delle regioni adriatiche. spazio, l'astronauta italiano Luca Parmitano è tornato sulla Terra dopo 6 mesi che era in orbita, e per fortuna il satellite Goce si è disintegrato in atmosfera, non c'è stato nessun danno per quanto riguarda l'Italia e la Terra in generale. Calcio, giudice sportivo chiude per 2 turni le curve della Juventus dopo i cori antinapoletani. Bene, vi dicevo appunto del, avete sentito, questa catastrofe, questa ecatombe terribile nelle Filippine a causa di un tifone che nella storia non si ricorda mai così potente, si parla di almeno 10.000 vittime, poi secondo l'ONU ci sarebbero 660.000 persone rimaste senza tetto, molte di queste starebbero ancora lottando per la sopravvivenza. Bene, sono molte le ONG, cioè le organizzazioni non governative, che si sono mobilitate in favore delle vittime del disastro nelle Filippine, tra le quali c'è Defense for Children International, Oxfam e Médecins Sans Frontières, che ci hanno chiesto come gruppo Sole 24 Ore di comunicare l'urgenza di questa fase di raccolta e che dunque vi segnaliamo a nostra volta. E questa sera c'è un responsabile invece di Agire, che è una grande ONG che ha all'interno tante altre organizzazioni non governative molto conosciute, e saluto allora Guglielmo Micucci. Sì, salve, buonasera. Buonasera, dell'area progetti di Agire. Quindi voi avete del personale che subito si è mobilitato nelle Filippine? Sì, noi fortunatamente c'era del personale già presente sul territorio perché lavorava da alcuni mesi. Lei ha citato Oxfam, e Oxfam è appunto una delle ONG facente parte del network di Agire. E si sono immediatamente attivati perché, come ha detto lei, il disastro è veramente gigantesco. Fortunatamente è stato declassato poi mentre si spostava verso il Vietnam. Perché era l'altra emergenza, poteva essere sì, il Vietnam. Sì, assolutamente, assolutamente. Dobbiamo dire che c'è stato una pronta risposta anche da parte dei governi, perché hanno aiutato le popolazioni ad allontanarsi dalle aree un po' più pericolose. I morti si parla di appunto 10.000, ma purtroppo in una circostanza del genere è difficilissimo, diciamo è quasi impossibile, serviranno settimane per riuscire a fare una valutazione diciamo reale e molto più vicina alla realtà. Ma i vostri, per esempio il vostro personale, i vostri poi sono volontari o sono proprio degli operatori che fanno questo mestiere? No, sono degli operatori, sono operatori umanitari che lavorano lì. Molte organizzazioni lavoravano nell'ambito dello sviluppo, non dell'emergenza, perché appunto le Filippine non avevano non era un contesto di emergenza, diciamo, congenito permanente. Questo ciclone, il tifone, ha creato questo disastro, e quindi per esempio alcune nostre organizzazioni hanno immediatamente inviato dei team di coordinamento, quindi specificamente sul disastro umanitario, per fare subito una prima valutazione. Quindi adesso si sta già partendo con anche le prime distribuzioni, perché poi il problema è che in pochissime ore si è praticamente disintegrato tutto un territorio, quindi con le infrastrutture, e di conseguenza c'è un'estrema difficoltà nel raggiungere anche i villaggi, per esempio quelli più estremi, per poter distribuire proprio i generi di prima necessità, quindi dal cibo alle tende, acqua, kit igienici, perché la conseguenza immediata è il rischio di scoppio di eventuali epidemie. Che questo è appunto, dopo queste catastrofi, è il rischio maggiore. Ma voi avete appunto gli operatori, poi ci sono, abbiamo detto, altre ONG. Le persone comuni come possono aiutare? Ma noi, e devo dire, questo è veramente una cosa molto importante, perché per la prima volta abbiamo lanciato un appello di emergenza insieme alla Croce Rossa Italiana, proprio perché ci siamo resi conto quanto era grave questa emergenza. In collaborazione con la Croce Rossa abbiamo deciso di lanciare un appello congiunto, e quindi su entrambi i siti internet è sicuramente possibile donare online. Siti internet di Agire? Di Agire, sì, su www.agire.it è possibile attraverso un numero verde che è 800 132 870, che è attivo da lunedì al sabato tutta quanta la giornata, sul nostro IBAN, il conto corrente postale, sul nostro sito agire.it ci sono tutte queste informazioni, questi riferimenti. Assolutamente, sì, sì. Senta, non parliamo degli italiani perché la Farnesina sta ancora cercando di capire se ci sono, se sono dispersi. Voi ne avete notizia? No, no, perché quando è proprio come prassi, è la Farnesina che attraverso l'unità di crisi prende la completa gestione di appunto degli italiani presenti sul territorio che ha subito il disastro. Noi siamo in contatto chiaramente con gli italiani, ma operatori umanitari facenti parte delle ONG di Agire e della Croce Rossa, e quindi abbiamo la certezza che quelle persone non hanno subito danni o non sono in pericolo, tant'è che stanno operando proprio in queste ore. Comunque abbiamo sentito un po' di finanziamenti stanno arrivando, immagino che ce ne sia bisogno di molti di più, anche senza adesso avere il numero esatto di quello che sta arrivando, no? Il Vaticano, leggevamo, $150.000, poi si sta muovendo l'Unione Europea. Sì, guardi, in tutte le emergenze la comunità internazionale si muove e dopo qualche giorno viene sempre detto che non è sufficiente. Mm. In questo caso mi permetto di dire che ancora di più, perché l'Unione Europea ha stanziato 3 milioni di euro, se non sbaglio nella giornata di ieri, ma che sono assolutamente insufficienti. Si può fare di più con tutti i paesi, assolutamente, no? Europea, è fondamentale, soprattutto nelle primissime ore del disastro, perché sono proprio i beni di prima necessità. Cioè, sulla ricostruzione ci si può lavorare nelle settimane, ma la mancanza di cibo e soprattutto la mancanza di acqua porta alla morte delle persone. Grazie Guglielmo Micucci e buon lavoro intanto, poi magari ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Assolutamente, grazie. Grazie a voi. Grazie. E c'è il colonnello Mario Giuliacci. Colonnello. Buonasera Roberta, un saluto agli ascoltatori. Ciao Mario, prima di parlare del nostro meteo, perché perturbazioni stanno arrivando anche da noi, però per fortuna non con quella gravità, dici proprio una cosa di questo tifone, come può essere così devastante un vento che arriva? Certo, beh, diciamo questo, che innanzitutto i tifoni che possono cucinare degli uragani e dei cicloni nell'Oceano Indiano vivono succhiando calore all'oceano, quindi laddove l'oceano è molto caldo, supera i 27-28 gradi nelle acque, lì tendono a svilupparsi questi terribili mulinelli di 300-500 chilometri di diametro. Quindi vuol dire che se si surriscaldano i mari, cioè i cambiamenti climatici, si alimentano di più? Certo, ma in questo periodo le acque del Pacifico ne erano eccezionalmente più calde del normale, e questo ha fatto sì che appunto con acque più calde del normale, in modo eccezionale, anche i cicloni i tifoni che nascono in quell'area siano eccezionalmente più caldi, più violenti della norma. Ecco, diciamo che queste temperature rilevate nel Pacifico equatoriale superavano di gran lunga i valori medi previsti per questo periodo dell'anno. Colonnello, invece, limitandoci all'Italia, che cosa arriva? Una perturbazione? C'è un passaggio tra una perturbazione e l'altra? Tanto ricordiamo che l'autunno è la stagione più piovosa e purtroppo anche la stagione nella quale più frequentemente si verificano nubi frangi, piogge torrenziali e purtroppo qualche volta anche alluvioni. Beh, che cosa ci attende in questa settimana? È arrivata una perturbazione domenica, ha interessato dapprima il centro-nord, oggi sta interessando il centro-sud con fenomeni qua e là anche intensi, domani mercoledì ancora interesserà le regioni del Medio Adriatico e il sud, giovedì ormai sarà limitata solo al sud, ma venerdì incominciamo da capo, perché arriverà una nuova perturbazione, anche questa piuttosto intensa, con venti che questo forti, addirittura nevicante sull'arco alpino a quote fino a 700-800 metri, ma questo è un fatto positivo, la neve, perché farà contenti gli occupanti. preturistici, diciamo, sulle Alpi, gli appassionati di sci. Comunque occhio a questa nuova perturbazione che arriverà venerdì, perché anche questa è piuttosto intensa. Poi per il fine settimana ci aggiorniamo venerdì stesso, colonnello Giuliacci. Certo, lasciamo un punto interrogativo. Buon tempo a te comunque, ciao colonnello. Grazie Roberta, un saluto agli ascoltatori, buonasera. Ciao. Adesso altra pausa, c'è la pubblicità. C'è sempre il numero per i vostri messaggi, per le vostre opinioni sui fatti del giorno, 349-238-6666, se volete in particolare sulla Lega e sulla pagina Effetto Notte trattino Roberta Giordano, la pagina Facebook. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Prima di salutare e introdurre il prossimo ospite, vi ricordo, come sempre dopo ogni pausa, i fatti principali della giornata. A cominciare dalla legge di stabilità, da domani inizia l'esame dei 3.000 emendamenti, anche la Confcommercio chiede delle modifiche, forse c'è un accordo tra PD e PDL per esentare dall'IRPEF chi guadagna meno di 12.000 euro. Il tifone che ha devastato le Filippine, la comunità internazionale organizza i soccorsi nel paese, c'è preoccupazione per alcuni italiani che non rispondono all'appello, e leggo un'agenzia di questo istante che dice: il tifone che ha colpito le Filippine ha causato oltre 10.000 morti nella sola Tacloban, lo afferma il capo delle operazioni umanitarie delle Nazioni Unite, dice le autorità locali stimano che le vittime siano 10.000 in quella sola città. Le stime iniziali indicavano che il numero dei morti si riferiva a tutto il paese, quindi pensate che catombe incredibile debba essere questa. E poi il maltempo in Italia, abbiamo sentito il colonnello Giuliacci, le condizioni meteo stanno creando problemi in alcune zone della penisola, in particolare in Toscana, Umbria, Marche e Campania, e il maltempo colpirà fino a mercoledì il centro-sud e le regioni adriatiche. Il calcio, il giudice sportivo chiude per due turni le curve della Juventus dopo i cori antinapoletani. E adesso parliamo della Lega Nord, va verso il congresso, ci sarà il prossimo 7 dicembre l'elezione del nuovo segretario dopo Maroni, e quello più in vista in questo momento è Matteo Salvini, eurodeputato e segretario della Lega Lombardia, ci sono poi, devono raccogliere poi i candidati almeno 1.000 firme entro il 30 novembre, la scadenza per presentare la propria candidatura era per oggi a mezzogiorno, e quelli che rientrano sono Umberto Bossi, che quindi ritorna in pista, il vice segretario federale della Lega Giacomo Stucchi, il consigliere regionale dell'Emilia Romagna Manes Bernardini e il consigliere comunale di Vizzola Ticino in provincia di Varese Roberto Stefanazzi. Manca all'appello Flavio Tosi, sindaco di Verona. Perché manca l'appello lei, Tosi? Ma manco all'appello perché intanto buonasera. buonasera. Perché io ho dato la disponibilità a presentare la candidatura non tanto perché Tosi diventasse segretario federale, ma per spingere verso una candidatura unitaria. Mi sono incontrato questa mattina con Roberto Maroni e con Matteo Salvini, siccome con loro, non solo con loro, anche con altri amici, anche con Luca Pini e tanti altri amici, abbiamo fatto questa battaglia interna al movimento per il cambiamento, per riportare in Lega i valori che gli elettori riconoscevano alla Lega, che erano andati persi dopo gli scandali, il sito, il cerchio magico, il trota, eccetera, e quindi non ho voluto fare una scelta che non fosse di contrapposizione, che non venisse eletta di contrapposizione con degli amici, perché appunto Roberto Maroni e Matteo Salvini sono prima di tutto degli amici, e quindi non ho presentato la candidatura perché non aveva senso, visto che comunque una candidatura unitaria non c'è. Ma Tosi, mi viene un'idea maliziosa, ma probabilmente senza nessun fondamento. Lei tempo fa, quando Alfano aveva lanciato le primarie per il centrodestra, mi pare che avesse detto che fosse disponibile. Non è che la tengano in serbo Maroni, Salvini, per in caso ci fossero queste primarie nel PDL, nel centrodestra, come andrà adesso, vediamo, con queste possibili scissioni. Che dice? Ma io l'appoggio da parte, graditissimo da parte di Roberto Maroni e di Matteo Salvini, l'avevo già avuto in caso di ipotetiche primarie, che secondo me non sono più tanto ipotetiche, perché alla fine ci si arriverà, perché altrimenti alcuni dirigenti del centrodestra che fieramente si oppongono alle primarie dovranno spiegare agli elettori del centrodestra perché anziché far scegliere a loro vogliono che la scelta cali dall'alto, una scelta quindi partitocratica anziché una scelta decisa democraticamente dai cittadini. E quindi ecco, sono fiducioso che avvengano, però sono due cose diverse. Le primarie sono una questione istituzionale legata al governo del paese, i congressi sono questioni interne ai movimenti politici. Però ripeto, non la candidatura non è stata presentata perché siamo sempre andati avanti assieme con Roberto Maroni e con altri amici e con loro continuerò ad andare avanti perché questo è quello che è l'evoluzione positiva della Lega, nasce dalla segreteria di Roberto Maroni in avanti. Quindi per il momento lei dice, tanto cioè, lei è giovane, c'è tempo, si candida Salvini insieme agli altri, poi si vedrà, lei continua a fare il sindaco di Verona, no? Nel frattempo. Beh, è chiaro, io sono stato, ho chiesto ancora la fiducia ai cittadini veronesi l'anno scorso, me l'hanno accordata e quindi intanto può andare avanti ancora. È il mio ruolo, ma non è che posso, devo, nel senso che quando chiedi la fiducia a decine, centinaia, migliaia di persone in questo caso, per un ruolo amministrativo devi anche mantenere fede all'impegno. Però qualche giorno fa lei si era detto disponibile per questa candidatura. Sì, ma ripeto, lo però, scopo era solo quello, casomai, di creare unità. Per arrivare all'unitarietà, però siccome non voglio che invece la cosa possa venire mal interpretata come una contrapposizione a qualcun altro all'interno del movimento, per me come valore principale viene prima l'unità del movimento. Flavio Tosi, prima di chiederle che ne pensa di Umberto Bossi a questo punto, le leggo magari qualche commento, la risata è già piuttosto eloquente. No, guardi, quando parlo di candidatura unitaria, io parlo di candidatura unitaria a prescindere da Umberto Bossi, cioè che Umberto Bossi faccia esattamente quello che meglio crede, io parlo di candidatura unitaria di tutto il resto del movimento. Quindi Umberto Bossi corre per conto suo e qualche leghista di vecchio stampo, qualche affezionato, qualche vecchio affezionato. Però le volevo leggere qualche commento dalla pagina Facebook di Effetto Notte sulla candidatura di Umberto Bossi. Paolo dice: ormai la Lega è sostituita da Grillo, poi mi dirà se è d'accordo. Floriano dice: Bossi è il nuovo che emerge. Poi Alberto: il nuovo, qualcuno ha capito da che parte stia, visto che tutti dicono di volere riforme richieste dal popolo, tanto per citarne una, la legge elettorale, mi dirà anche cosa ne pensa magari della legge elettorale. Domenico Alberto scrive: dato il trend dei partiti politici vedremo una scissione anche nella Lega. Claudio: sul nulla cambia sotto il sole, Bossi una novità come del resto tutta la politica italiana. E poi altre critiche molto pesanti: piuttosto che Salvini, scrive Tullio, mille volte meglio Bossi. Purtroppo è stata la malattia a fermare Bossi e conseguentemente la Lega, che da quel momento ha imboccato una deriva fascista, dice addirittura. Mario: non si riesce a rottamare proprio nessuno. Che pensa di questi commenti, Tosi? Ma allora, che sicuramente la malattia di Umberto Bossi, che fino a quel momento, fino al 2004, era stato un grande leader politico, indiscutibilmente un grande leader politico, dopo la malattia purtroppo qualcuno, chi lo consiglia, chi lo consigliava allora e chi lo consiglia ancora oggi, anziché consigliarlo di fare il padre nobile del movimento, che è un ruolo che tutti gli riconoscono per quello che lui ha dato anche fisicamente alla Lega. Ma c'è, ripeto, chi lo consiglia male e lo porta a delle candidature che veramente oggi hanno poco senso, ma ripeto, non è una scelta sua purtroppo, ma è di chi lo circonda. Mentre invece per quanto riguarda la questione di Beppe Grillo, la differenza sostanziale che c'è tra la Lega Nord e Beppe Grillo è che mentre la Lega comunque ha saputo e sa assumersi responsabilità di governo, cioè cerca anche di fare delle cose positive a favore delle comunità, fino ad oggi, a meno che la cosa non cambi, fino ad oggi Beppe Grillo rappresenta solo il tentativo di sfasciare tutto, di rompere, ha parlato lui di scardinare il Parlamento, di aprirlo come una scatola di sardine. Noi cerchiamo invece di fare le riforme e di sistemare questo paese, non di distruggerlo. E invece sulla legge elettorale, qual è la sua idea? Ma sulla legge elettorale la mia idea è che serva chiaramente una riforma elettorale che porti di nuovo i cittadini a scegliere, quindi io personalmente sono favorevole alla reintroduzione delle preferenze, perché siccome serve meritocrazia, la meritocrazia esiste praticamente in tutti i contesti, come è giusto che sia, tranne che in politica. Oggi sono i partiti che decidono direttamente chi viene eletto in Parlamento e è una legge che abbiamo contribuito anche noi purtroppo ad approvare. Invece serve una legge che riporti la scelta in capo ai cittadini, così possono decidere chi mandare in Parlamento e anche chi non rimandare in caso appunto non mantenesse quello che è il rapporto fiduciario con i cittadini stessi, quindi reintroduzione delle preferenze e una legge realmente maggioritaria. Cioè, noi nel 2006 insieme al centrodestra introducemmo questa legge per impedire al centrosinistra di vincere le elezioni, si scelse questo meccanismo strampalato direi, dove alla Camera qualcuno vince davvero, mentre invece al Senato, spacchettando il premio su base regionale, si ottiene il risultato che successe nel 2006, che è successo di nuovo questa volta, che alla fine al Senato si rischia che non vinca nessuno. E invece serve una legge elettorale come quella dei sindaci, dove i cittadini scelgono chi vince e quando uno vince poi alla fine deve poter governare. Poi è chiaro che questa non è l'unica riforma che serve, perché se non si danno dei poteri veri al governo e quindi a chi viene eletto dai cittadini, poi si rischia che sia la burocrazia romana. Quindi la Repubblica presidenziale, penserebbe lei? Cosa serve? Presidenzialismo da una parte e federalismo dall'altra, quindi dei forti poteri, delle forti autonomie, quindi responsabilità vera agli enti locali e alle regioni, che ovviamente devono essere controllati nei livelli di spesa, ripeto, averne la piena responsabilità nel bene e nel male. D'altra parte però serve anche un governo che possa governare, perché la differenza sostanziale che c'è tra i comuni, anche se è un paragone forse inappropriato, e il governo nazionale, è che quando tu sei sindaco, nei limiti di quello che sono che è il tuo bilancio, tu puoi decidere e fare. Molto spesso a Roma ha molto più potere l'alta burocrazia dei ministeri che non il governo stesso. Leggo ancora due messaggi che invece arrivano al 349-238-6666. Uno dice: Ugo, Bossi è l'emblema del politico italiano, farebbe bene a starsene a casa. Mentre Piero, dalla provincia di Lucca, scrive: Bossi è finito dopo tutti i danni compiuti, Salvini non mi sembra all'altezza, solo Tosi sarebbe stato l'unico a risollevare una Lega ormai in stato comatoso. A parte il complimento, è un po' in stato comatoso la Lega, Tosi? No. La Lega sta vivendo una fase che diciamo c'è stata una fase molto difficile appunto legata a due motivi: gli scandali da una parte che hanno travolto alcune persone, poche in realtà per fortuna, del movimento e sono ben note, e quella forse la cosa peggiore, i mancati risultati, cioè a parte l'ottimo lavoro di Maroni come ministro dell'interno, la Lega le grandi riforme che doveva fare da anni a questa parte al governo del paese non è riuscita a concluderle, e questo chiaramente l'elettorato oggi ti dice: tu mi hai detto che questo risultato l'avresti conseguito e invece in realtà non è stato così. E quindi stiamo cercando di uscire da questo momento di difficoltà ritornando alla concretezza. Oggi gli slogan non pagano più, la demagogia nemmeno, è inutile fare propaganda politica fine a se stessa, oppure appunto le posizioni di Beppe Grillo che non porta a nessuna parte. Bisogna dire ai cittadini, agli elettori, al nord come al sud, quali sono i problemi e soprattutto quali sono le soluzioni, e avere la coerenza e la serietà di perseguirli davvero. Tosi, ancora la trattengo proprio un minuto e mezzo. Leggo un'agenzia appena arrivata: il ricordo dei cittadini lombardi che hanno aiutato gli ebrei italiani, un inno alla libertà contro i mille volti della persecuzione che, come nel caso del leader dell'opposizione Silvio Berlusconi, può manifestarsi anche con la negazione della parità dei diritti. Questo lo ha detto il vicepresidente della Lombardia del PDL Mantovani a Gerusalemme. Quindi di nuovo insistono su questo aspetto di Berlusconi perseguitato come gli ebrei. Che pensa lei in questo momento di Berlusconi, Tosi? Ma allora, è un paragone che definire inappropriato è poco. Gli ebrei vennero perseguitati, sterminati nel modo più terribile ed abietto dal nazifascismo. Quindi un paragone che riguardi la politica o la magistratura non regge, è offensivo nei confronti del popolo ebreo. E poi che ci sia una questione di una particolare attenzione della magistratura nei confronti di Silvio Berlusconi da 20 anni a questa parte, cioè da quando è sceso in politica, questo è innegabile. Però ecco, penso che certi fatti della storia così dolorosi, così drammatici e traumatici, penso che bisognerebbe non paragonarli a vicende che assolutamente non possono avere lo stesso peso. È come paragonare il sacro e il profano, insomma, sono due cose troppo diverse e troppo distanti. Un'ultimissima cosa, Flavio Tosi, proprio sintetico: dica qualcosa di leghista. Io dico sempre cose leghiste. No, me ne dica una al momento, qualcosa di profondamente leghista. Ma guardi, io credo che se in questo paese riusciremo a fare. Guardi, direi più che leghista, una cosa di buon senso, se all'interno della politica e delle istituzioni ai vari livelli ognuno facesse il proprio dovere, forse il paese oggi non si troverebbe nelle condizioni in cui si trova. Grazie Flavio Tosi, ci saluti Verona allora. Beh, allora saluto, visto che non sono nella mia città perché sono in giro per il Veneto, ma non è vero, una saluto tutto il Veneto. Dal Veneto tutti i miei concittadini. Grazie Tosi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, buona serata. Aggiorniamo chi viaggia e a tra poco di nuovo insieme. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, trattino Roberta Giordano, poi messaggi al 349-238-6666, ma avete sentito in questi giorni tutte queste polemiche sul presunto gonfiamento, diciamo così, delle tessere del PD, soprattutto in alcune zone. Asti in Piemonte è stata forse la cittadina che più ha fatto parlare di questo caso, di circa improvvisamente almeno 200 cittadini di origine albanese che si sono iscritti al PD astigiano. Hanno detto, ecco, le hanno manipolati, li hanno usati per gonfiare il numero di tessere, però un gruppo di albanesi sono scesi in piazza in questo fine settimana ad Asti per dire in realtà il nostro voto è per l'integrazione e la democrazia, non siamo carne da macello, insomma, da usare per queste cose. Allora vorrei sentire brevemente Hasan Bulgari, buonasera. Buonasera, buonasera. Del PD di Asti, lei è di origine albanese, abbiamo proprio due minuti per raccontare questa cosa, però ci tenevo, Bulgari. Lei da quanto tempo è in Italia? Io sono in Italia dal marzo del 91. È un sacco di anni, quindi. Sì, 22 anni. E a lei piace essere partecipativo, partecipare alla vita quindi della collettività, della comunità, da quanto tempo fa politica? La politica no, faccio da poco, da pochissimo, cioè seguo la politica da tantissimo tempo, da quasi da quando sono venuto, però che sono dentro in politica sono da pochissimo, da queste elezioni qua. Lei è uno di quelli che ha fatto la tessera del PD, quindi, in questo periodo? Ma io la tessera del PD ce l'avevo già, perché l'avevo fatto anche l'anno scorso. Lei è uno che... La mia famiglia c'eravamo già la testa del PD perché abbiamo votato le primarie, il sindaco di Asti quando avevo state le relazioni, quindi c'eravamo già la tessera. Che cosa la convince di più del PD, dell'ideologia del PD? Io onestamente sono un po' che bollo dentro adesso in questa situazione politica, quindi ultimamente ero più avvicinato a Grillo che al resto. Le ultime elezioni che sono state fatte, quelle nazionali, non mi ha fatto un po' arrabbiare Grillo, e quindi ha votato PD? No, non Grillo, il PD, stesso, il Bersani, che non ha fatto un passo indietro, un passo di fianco per far passare Renzi, così non saremmo stati in questa situazione. Però si è fatto la tessera, abbiamo ancora pochi secondi, mi dicono, però si è fatto la tessera del PD lei adesso, cioè è iscritto il PD, Bulgari. Sì. Chi voterà? Delle primarie? Renzi. Magari allora ci sentiamo un'altra volta e mi dice perché le piace in particolare Renzi, d'accordo? Grazie. Senz'altro. Grazie Bulgari. Grazie. Quando siamo verso la fine c'è sempre fretta, poi è venuto a trovarmi Giuseppe Chiellino, collega del Sole 24 Ore. Giuseppe, sentito di questa tuc che mi fa venire in mente il cracker, quello io chiederei danni, ho scritto su Twitter, perché associarlo, cioè una cosa un po', no? Beh sì, in effetti Marco Mobili, il collega di Roma che sta seguendo questo emendamento presentato dal PDL, l'ha definito un biscotto, nel senso che è un tentativo del PDL di modificare completamente la tassazione sugli immobili contro quello che è stato l'orientamento del governo finora. Quindi si cancellerebbe la TRISE, ci sarebbe il TUC, una confusione creatività, non so se confusione creatività o mischiamento delle acque e delle carte. Non... Sì, più che larga intesa direi grande confusione su questo fronte. Le sigle, oggi i colleghi del lunedì hanno scritto che la l'IMU è stata cambiata 15 volte in 2 anni, in questo modo si scoraggiano i contribuenti, si scoraggiano i cittadini, si scoraggiano le imprese. Immaginate voi un imprenditore straniero che vuole venire in Italia a investire di fronte a questa selva. Se la dà a gambe, dici tu, vero? Ma pensi che ci si arriverà a questa TUC o intanto ne inventeranno qualcun'altra finché si cambia la legge di stabilità? Ma guarda, da quello che, 23 secondi. Da quello che ho capito è l'ennesimo tentativo di creare confusione, di cambiare le carte in tavola, legato soprattutto alla necessità, a un'idea demagogica anche del prelievo fiscale, che però non produrrà benefici per i cittadini e per i comuni, che in questa situazione non sanno cosa devono tassare e come devono tassarlo. Datevi una mossa, politici, al governo, perché insomma, queste cose non ci piacciono, non piace alla gente comune, che siamo noi poi che dobbiamo pagare. Grazie Giuseppe Chiellino. Grazie a voi. Grazie, noi ci sentiamo tra pochi istanti e vi aggiorno sulle notizie più importanti.